il sito fu chiuso per presunte violazioni di copyright. Infatti questo è un tema centrale che, come sapete bene, noi seguiamo spesso, perché in realtà l'idea che delle persone donino il proprio tempo libero per sottotitolare dei film e delle serie e renderli accessibili a tutti gratuitamente è una cosa un po' diversa da una violazione di copyright, perlomeno per come lo intendiamo noi. Per cui, insomma, è un film che è fatto molto bene, tra l'altro ci tenevamo molto da avere, e che adesso abbiamo finalmente in catalogo e che vi consigliamo vivamente di vedere. La seconda proposta di OpenDDB che invece vorremmo citarvi è un altro documentario uscito pochi mesi fa per la regia di Teresa Sala, che è un'autrice che vive qui a Bologna e ha fatto diversi progetti di documentario in questi anni. E il film si chiama Non è amore questo, ed è un documentario che a me personalmente mi ha molto colpito la prima volta che ho avuto modo di vederlo, perché i temi che tratta, diciamo, sono i temi legati alla sessualità e la percezione del proprio corpo sotto la chiave della lettura anche della disabilità fisica. La protagonista, infatti, Barbara, è una ragazza che ha appunto alcune disabilità fisiche, e la cosa molto bella di quel film è il modo in cui viene toccato comunque un tema che anche nel cinema viene toccato, ma fino a un certo punto, o perlomeno quando poi questo sfocia anche nell'autorappresentazione di sé, della propria percezione e del proprio rapporto con la sessualità. E la cosa molto bella secondo me di questo film è che la protagonista Barbara non si mette semplicemente a nudo all'interno del film raccontandosi, ma ecco, partecipe anche nella parte autoriale del film. Di fatto Barbara, assieme a Teresa, è coautrice dell'opera, quindi questo secondo me è uno dei punti di forza di quel film, anche perché riesce a raccontare non solo in prima persona, perché appunto poi Barbara parla di se stessa fondamentalmente, ma anche riesce a farlo con un linguaggio molto preciso e raffinato, che va dritto al punto e che riesce a fare soprattutto nei casi in cui hai già avuto un tuo percorso autoriale, come è il caso di Barbara, che appunto fa teatro e scrittura da molti anni. È un film molto delicato e molto bello che vi consiglio scaldamente di venire a guardare su OpenDDB, perché secondo me c'è bisogno di film di questo tipo, ecco, perché è proprio un film che va a toccare non solo dei temi, ma anche il modo in cui poi racconta la vita di questa persona in un modo che secondo me ci farebbe bene avere più spesso la possibilità di vedere. E vado in conclusione invece raccontandovi, come sapete bene, OpenDDB è una galassia molto ampia che racchiude tante cose, e tra queste cose ci siamo anche noi stessi, nel senso che noi siamo anche appunto una casa di produzione che si chiama SMK Video Factory, e che tra le varie cose che ha prodotto è la casa di produzione che ha prodotto l'anno scorso The Harvest. Per il 2019 stiamo entrando adesso in una fase nuova di produzione, perché, come per chi non lo sapesse, noi facciamo sempre un percorso di coproduzione popolare in crowdfunding su ogni film che facciamo. Quest'anno abbiamo due nuove proposte sul 2019, la seconda avremo modo di parlarne più avanti ed è girata in Palestina, mentre la prima abbiamo lanciato da una settimana circa la campagna di coproduzione popolare su produzioni dal basso, ed è The Milky Way. The Milky Way secondo me è un progetto estremamente interessante, si concentra fondamentalmente, è un film documentario che racconterà cosa sta succedendo oggi tra Clavier e Bardonecchia, quindi nel valico transalpino tra Italia e Francia, quindi parliamo di nuovo di storie di confine, fondamentalmente di migrazioni contemporanee. Cosa sta succedendo oggi lì, dove molti ragazzi che arrivavano dal mare o da altre linee migratorie, nel tentativo di passare tra l'Italia e la Francia, quindi superare quel confine, quale situazione si sta verificando nella zona, che problemi ci sono stati, e purtroppo in certi casi anche alcuni di questi ragazzi non ce l'hanno fatta e sono morti durante il tragitto, perché spesso c'è anche la neve alta. E ci siamo resi conto che è nell'ottica anche di immaginare il cinema per urgenza e denuncia, che è una cosa che noi abbiamo sempre fatto, questa è una vicenda che è molto importante secondo noi far emergere, perché non si sa ancora bene abbastanza cosa sta succedendo in quella zona, e soprattutto a livello di cinema sociale è anche quello un livello di narrazione che secondo me è importante acquisire in questo momento molto complesso che stiamo vivendo. La cosa molto interessante e bella di quel, scusate, di quel film, di questo progetto, è che vede per la prima volta un autore di OpenDDB che è Luigi Dalif, è già autore di Bing 7, che è un film di cui abbiamo avuto modo di parlare spesso, entrare nella rete produttiva anche di tutta questa nostra galassia, per cui Luigi si è proposto, appunto conoscendoci ormai da tempo anche per la distribuzione dei suoi film precedenti, come proposta di regia su questo nuovo progetto, e noi abbiamo colto questo progetto con molto entusiasmo, anche perché non solo va a toccare un tema molto importante secondo noi, e che è anche parzialmente un proseguimento della riflessione che abbiamo fatto anche su The Harvest, per esempio, ma lo farà in un modo molto particolare, perché anche qui ci sarà un intreccio narrativo particolare tra sezioni di finzione, sezioni documentaristiche e sezioni invece in disegno ed animazione, perché ci sono diversi livelli storici anche dentro questo film. Si parlerà, ed è uno dei punti molto interessanti di questa vicenda, non solo di come quella rotta migratoria è vissuta oggi, attraversata, ma come gli stessi italiani fino a 50, 60, 70 anni fa utilizzavano quella rotta per scappare in Francia, per diverse ragioni nella storia degli ultimi 150 anni e in diverse fasi. Per cui insomma Milky Way è sicuramente uno dei progetti di punta per il nuovo anno, anche come produzione nostra, e vi invito caldamente a seguire gli aggiornamenti sia sui social network che anche sulla pagina dedicata di OpenDDB, ma anche e soprattutto, se vi va, di entrare a far parte della comunità di coproduttrici e coproduttori del film attraverso questa prima fase di raccolta di donazioni che stiamo facendo su Produzioni dal Basso, nella pagina dedicata al film The Milky Way. E ovviamente siamo in una fase dove non solo, come spesso accade nei nostri film, abbiamo bisogno di aiuto in termini di raccolta economica e di fondi, ma abbiamo sicuramente molto bisogno di aiuto anche nel diffondere questa storia, questo progetto, perché l'anima centrale del nostro modello di coproduzione popolare è sempre stato quello del passaparola tra le persone e tra le comunità. E quindi insomma vi invito a seguire tutte le informazioni sulla pagina dedicata di Produzioni dal Basso e vedere un po' come andremo avanti in questa nuova avventura. E allora un saluto e un ringraziamento ad Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per un aggiornamento sulle novità del mese. Ci sentiamo per la prossima. Ci sentiamo per la prossima e sono molto lieto di dirvi che avremo delle novità molto grosse. Bene, teniamo la suspense. Ciao, a presto. Ciao, a presto, grazie. Con la regista Pepi Romagnoli per parlare del suo documentario Una gloriosa delegazione a Pyongyang. Pepi, ben trovata. Grazie, sì, sono Pepi Romagnoli e sono pronta a rispondere alle vostre domande. Allora, intanto descriviamolo questo documentario, di cosa si parla? Dunque, il documentario, che è un film documentario in realtà, perché è costruito come un film, racconta la storia di quattro persone che vengono da quattro parti diverse del mondo: una è russo, una è venezuelana, uno è milanese e l'altro è sardo, che si incontrano e decidono di partire per la Corea del Nord, perché tutto il mondo dice male della Corea del Nord. E siccome l'amico russo sostiene invece che è il posto perfetto per una luna di miele, cominciano a indagare sulla Corea del Nord e decidono di partire. Naturalmente questo, essendo un documentario, racconta tutto quello che è successo veramente. Noi siamo partiti con l'ambasciata della Svizzera, con sede a Berna, dell'ambasciata della Corea del Nord in Svizzera, e all'ultimo momento non volevano lasciarci i pass per partire, perché c'era stato un accordo che non avevano capito. Quindi diciamo che tutto il documentario racconta quello che succede in tempo reale,